671. Pudding Cesarino. Ve lo do per un buon ragazzo questo Cesarino e ve lo vendo col nome strano con cui lo comprai da una giovane piuttosto bella signora, religiosa ed onesta, uno di quei tipi che senza volerlo sono capaci per leggerezza di compromettere le persone che li avvicinano. Midolla di pane fine grammi 200, zucchero grammi 250, altro zucchero per lo stampo grammi 100, uva Malaga grammi 125, uva sultanina grammi 125, latte mezzo litro, marsala e rum in tutto 3 cucchiaiate, uova numero 5. Tagliate la midolla di pane a fette sottili e gettatela nel latte. Aspettando che questa inzuppi, nettate l'uva, levate i semi alla malaga e preparate la forma per cuocerlo, che sarà quella per i budini di rame lavorata. Disfate al fuoco in una casseruola i suddetti grammi 100 circa di zucchero e preso che abbia il color nocciuola, versatelo nello stampo per intonacarlo tutto. Quando poi sarà ghiaccio, ungete l'intonaco dello zucchero col burro fresco. Alla midolla inzuppata unite i detti grammi 250 di zucchero, i rossi delle uova e i liquori, rimestando bene ogni cosa. Per ultimo aggiungete l'uva e le chiare montate. Cuocetelo a bagnomaria per 3 ore intere, ponendovi il fuoco sopra soltanto nell'ultima ora. Servitelo caldo e in fiamme e perciò annaffiatelo abbondantemente di rum e dategli fuoco con una cucchiaiata di spirito acceso. Potrà bastare per 10 o 12 persone.